in beltà veneris testa proserpinat Giunone in regina di flutti e ancor mi ricorda quanta diva vantò la Grecia tutta e al parano di te la luna è brutta sai che mi piaci voi scherzate e non mi preme di parlare fino io ti prometto che in breve lo vedrai ma prima di partire ben che sappi che t'amo al par d'Orfeo bella Euridice e più felice sei col tuo campione che di Dione non fu il proprio amore con la lanza di Troia